Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi ascoltatori un caro saluto e benvenuti a questo nostro appuntamento mensile attorno alla parola. È come se virtualmente ci sedessimo tutti in cerchio, lasciando al centro quell'unica parola che dà vita e rischiara i passi dell'uomo. Tutti suoi discepoli, sia chi parla sia chi ascolta. E fin dall'inizio di questo nostro appuntamento vorrei chiedere proprio allo Spirito Santo di illuminare me e ciascuno di voi, perché questa parola che viene seminata nei nostri cuori possa trovare accoglienza, come seme morire e poi germogliare in frutti di autentico discepolato e di sequela. E affido anche me e voi alla Vergine Celeste, la Vergine dell'Ascolto, che ha custodito e generato la parola di Dio. Questa sera ci dedicheremo al capitolo 14 degli Atti degli Apostoli. Siamo proprio arrivati alla fine, nella nostra lettura, alla fine del primo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo. E nel capitolo 14 il narratore presenta uno dei punti nodali di questo primo viaggio missionario, che è l'apertura dell'annuncio al mondo pagano. Vedremo come Paolo percorra sostanzialmente tre grandi città, Iconio, Listra, Derbe, e poi da queste città torni al punto di partenza per condividere quello che ha vissuto con la comunità. Penso che la pagina che questa sera condivideremo insieme sia anche il miglior commento che possiamo fare alle pagine, ai testi che il lezionario romano ci propone nella liturgia odierna. Testi che toccano nel vivo la questione dell'apertura della prima comunità cristiana al mondo pagano. Abbiamo ascoltato nella prima lettura di quest'oggi come la decisione di Pietro, spinto dallo Spirito ad accogliere Cornelio e quelli della sua famiglia, non abbia trovato un contesto facile nella chiesa di Gerusalemme, che non lo riaccoglie al suo ritorno battendogli le mani, ma esigendo quasi delle spiegazioni da parte sua. Allo stesso modo, la pagina del Vangelo odierno ci presentava un Gesù che spinge i suoi a uscire dai recinti, li spinge fuori, cammina davanti a loro per condurli a pascoli che non erano stati preventivati. Il recinto, al contrario, spazio dove le pecore trovano ristoro e riparo, è stato presentato dalla pagina del Vangelo come un contesto di rischio, dove entrano i briganti per derubare, per dividere, per seminare un clima di paura. Quindi il capitolo 14 può essere davvero pensato come un commento a quello che la liturgia di oggi ci propone. Ma entriamo subito nella lettura di questo testo, scandendo la lettura in quattro momenti. Il primo momento sarà dedicato alla visita di Paolo a Iconio, il secondo momento alla visita dell'Apostolo a Listra, terzo momento al discorso che San Paolo tiene a Listra, e poi un ultimo momento lo dedicheremo al ritorno e alla relazione, alla condivisione che caratterizza Paolo con la Chiesa di Antiochia che lo ha inviato. Vi invito, almeno quanti sono nella possibilità di farlo, di prendere in mano un'edizione del Nuovo Testamento o anche della Bibbia intera, aprendolo sul capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 1 al versetto 7, dove si racconta appunto la prima tappa di questo viaggio, primo viaggio missionario di Paolo che continua, la prima tappa nella riflessione di stasera, che si pone in continuità con quanto abbiamo già commentato nelle puntate scorse. Anche a Iconio entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande moltitudine di giudei e di greci divennero credenti. Ma i giudei che non avevano creduto eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Nonostante ciò, essi si trattennero là per molto tempo, parlando con coraggio nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che si compissero segni e prodigi per mezzo loro. La popolazione della città si divise. Alcuni stavano con i giudei, altri con gli apostoli. Quando poi alcuni pagani e giudei con i loro capi si mossero per maltrattarli e lapidarli, saputolo, si rifugiarono nelle città della Licaonia, a Listra e a Derbe e nei dintorni, e là portavano il lieto annuncio. Questa tappa inizia con l'arrivo a Iconio. Ora, se noi calcoliamo i passi che i primi missionari, in questo caso Paolo e Barnaba, hanno dovuto fare, tenendo presente che Paolo e Barnaba arrivavano da Antiochia di Pisidia, bene, per arrivare a Iconio hanno macinato ben 140 chilometri. E già ci viene rappresentata, come dire, una fotografia di questi grandi missionari del Vangelo, Paolo e Barnaba. Sono persone che macinano chilometri, ma al di là dei chilometri sono persone che incontrano culture nuove, che affrontano pericoli, che espongono se stessi, tutto per la parola di Dio. Questa parola che portano nel cuore e nella vita come fiaccola che li illumina, la vogliono condividere con la gente e per questo macinano chilometri all'insegna di una condivisione piena. Questo mi faceva pensare come spesso nelle nostre comunità cristiane si è fermi su due mattonelle e anche quando si è fermi su due mattonelle si rischia di essere in tensione o di non avere quella comunione perché un gruppo è in tensione con l'altro, un movimento è in tensione con quell'altro, un'associazione è in tensione con quell'altra. A volte avere gli orizzonti troppo chiusi o vivere una sorta di dimensione del recinto porta a tensioni e a non vivere quella dimensione della parola che è invece l'andare. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, se non erro, Gesù pone degli obiettivi alla sua missione verso i discepoli e dice loro: io sono venuto perché abbiate la gioia e l'abbiate in abbondanza, perché andiate e portiate frutto e perché il vostro frutto rimanga. È interessante, il Signore invita ad andare a portare frutto, come se le due cose siano legate tra di loro, e qui lo vediamo all'opera proprio in questi grandi missionari del Vangelo. Il loro frutto è legato al loro andare, questo andare che si traduce a volte col macinare chilometri, altre volte con il vivere, l'esperienza dell'immobilità con un cuore aperto a tutti, con un cuore che raggiunge le diverse comunità. Teniamolo ben presente, Saulo non vive la dimensione dell'andare solo quando macina chilometri. Vive la dimensione dell'andare anche quando, chiuso in una prigione, cerca di tenere vivi i rapporti con le diverse comunità, portandole nella preghiera, incontrando i loro rappresentanti, scrivendo loro delle lettere. Questo illumina tantissimo la nostra vita cristiana, perché noi non ci limitiamo ad andare quando maciniamo chilometri come missionari della parola, ma anche quando nella nostra casa, sull'altare della sofferenza, nelle nostre comunità cristiane, cerchiamo di tenere il più possibile gli orizzonti del nostro cuore aperti al mondo, rifiutando la logica del recinto. Penso che questo messaggio che ci giunge dal capitolo 14 degli Atti degli Apostoli sia prezioso. In questi versetti che abbiamo ascoltato notiamo il solito schema anche tipico della narrazione delle prime missioni cristiane. Notiamo che si inizia con la predicazione, a questa predicazione segue il momento di successo, al momento di successo segue l'opposizione, normalmente negli altri casi notiamo che all'opposizione segue la fuga e il passaggio a un'altra città. Ora, In questo caso ad Iconio lo schema è spezzato. Perché è spezzato? Perché dopo la predicazione, il successo e l'opposizione, il testo ci dice che nonostante ciò, essi si trattennero là per molto tempo parlando con coraggio del Signore. Cioè, a un certo punto, questi due grandi missionari, Paolo e Barnaba, decidono di opporsi a una logica della fuga, all'insegna dell'opposizione. Capiscono che predicare il Vangelo significa vivere ad un certo punto anche la dimensione dell'opposizione come parte di quell'annuncio. E al capitolo 14, in questa esperienza di Iconio, questa decisione viene descritta dal narratore come altamente feconda, al punto tale che il Signore dona a questi missionari della parola quattro doni. Il primo dono è quello della parresia, il secondo dono è quello della martiria, o meglio la testimonianza, il terzo dono è quello della caris, la grazia, il quarto dono è quello dei semei eterata, cioè dei segni, dei miracoli che riescono a compiere. Come se nel momento in cui uno vive il mistero pasquale di Cristo nella propria vita, questo diventa il momento più fecondo della loro vita. Dio non si lascia vincere in generosità. Nel momento in cui l'annuncio della parola si intreccia con l'esperienza del mistero pasquale, scattano i grandi doni dello Spirito, la parresia, la martiria, la caris e semeia e terata, cioè la forza nell'annuncio, la forza nella testimonianza, la luminosità della grazia e la grandezza di segni e prodigi. Non solo, ma da tutto questo scaturisce una definizione di Paolo e Barnaba di cui Luca è molto geloso. Se voi leggete l'opera lucana nella sua completezza, noterete quindi di Vangelo e Atti degli Apostoli, noterete che l'evangelista adatta, utilizza il termine, il sostantivo apostolos solo per i dodici. In due casi, entrambi al capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, questa definizione di apostolo viene applicata a Saulo e Barnaba. E una di queste volte è proprio nel brano che abbiamo letto, quando Saulo e Barnaba, per il bene della parola, affrontano le esigenze del mistero pasquale. E una cosa molto bella è il fatto che in una delle varianti greche del testo, proprio al capitolo 4, subito dopo gli apostoli, il testo, il versetto 4 dice: la popolazione della città si divise, alcuni stavano con i giudei, altri con gli apostoli, intendendo per apostoli Paolo e Barnaba. E qui c'è un inserimento del testo occidentale, cioè di uno di questi testi antichi che trasmettono l'originale degli Atti degli Apostoli, dove inserisce saldamente uniti alla parola di Dio. Cioè questi apostoli vengono descritti con questa qualifica, come coloro che non solo portano la parola, ma sono saldamente uniti alla parola di Dio. Il verbo greco utilizzato è collomenoi, il verbo della colla, per dire questa adesione piena dei due apostoli, di Saulo e Barnaba. Ecco, lasciamo un breve stacco musicale prima di passare alla nuova tappa. Quindi capitolo 14 inizia con questa sosta di Saulo e Barnaba a Iconio, dove accanto al successo o insuccesso di questi due apostoli, quello che preme al narratore è presentare la forza dell'annuncio di questi due uomini, che sono non solo guidati dallo Spirito, ma vivono tutto il dinamismo dell'annuncio della parola. Quindi un breve stacco musicale, poi da Iconio ci spostiamo a Listra. dopo il passaggio a Iconio, l'annuncio di Saulo e Barnaba procede verso Listra. E allora ascoltiamo il testo, siamo nei versetti dall'8 al 13. A Listra vi era un uomo incapace di reggersi in piedi. Stava sempre seduto, essendo zoppo fin dal seno di sua madre, e non aveva mai fatto un passo. Costui sentì Paolo mentre parlava, e Paolo, guardandolo fisso e vedendo che credeva di poter essere guarito, disse ad alta voce: «Mettiti diritto in piedi!» Egli fece un balzo e si mise a camminare. Le folle, vedendo ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la loro voce dicendo in licaonico: «Gli dèi sono scesi tra noi con aspetto umano!» E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Il sacerdote del tempio di Zeus, che si trovava alle porte della città, condusse dei tori inghirlandati presso le porte e voleva offrire un sacrificio insieme con la folla. Quando gli apostoli Barnaba e Paolo lo vennero a sapere, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla. Allora, il passaggio da Iconio a Listra presenta una maturazione nella narrazione, perché se Iconio fa vedere la decisa predilezione da parte di Saulo e Barnaba nel mondo pagano, Listra comincia a far emergere le difficoltà di questo annuncio. Prima di tutto continuano a macinare chilometri i due, perché dopo i 140 chilometri che hanno diviso Antiochia di Pisidia da Iconio, passano altri 30 chilometri da Iconio a Listra. Qui avviene un episodio molto simile a quello che avevamo letto nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli. Pietro iniziava la sua missione nel mondo ebraico, nel mondo giudaico, e durante questa missione nel mondo ebraico aveva notato come l'annuncio si era aperto con un miracolo, il miracolo dello storpio alla porta bella del Tempio. Era stato scelto dal narratore un malato per fare di questo malato il rappresentante del popolo ebraico. Un discorso molto simile avviene a Listra, cioè Paolo si sta orientando insieme a Barnaba in modo molto deciso in un mondo, in un contesto pagano. In questo contesto pagano il primo miracolo che viene compiuto è nei confronti di uno zoppo. Interessante la descrizione, perché la descrizione che viene offerta di questa figura è la tipica descrizione con cui l'ebreo vede il pagano, cioè incapace di reggersi in piedi, sta sempre seduto, zoppo fin dal seno di sua madre, non poteva mai fare un passo. È colui che non è radicato nella Torah veniva visto, veniva letto in questo modo. Quindi sia lo storpio di Gerusalemme sia lo zoppo di Listra sono due figure di riferimento che vogliono specificare la missione dei primi due missionari della parola nel mondo pagano. Ora, in questo confronto emergono dei grossi rischi. Il rischio di una differenza di cultura, per cui loro compiono un segno pensando di ottenere la fede di coloro che vedono e ascoltano, e invece suscitano un consolidamento della loro fede pagana. La non comprensione della lingua. Questi parlano in dialetto licaonico, Paolo e Barnaba non li capiscono. L'assenza di una propedeutica non c'è stato, sono passati subito alla guarigione di un uomo zoppo senza aver portato un annuncio previo. Insomma, il narratore sembra dire: va bene aprirsi al mondo pagano, ma attenzione, l'apertura al mondo pagano non è uno scherzo, richiede una tappa intermedia. Viene spontaneo chiedersi come mai Saulo e Barnaba vengono confusi con Zeus e Hermes. Allora, qui bisogna tenere presente la mitologia del posto. Infatti, quello che succede è l'identificazione della scena con un altro episodio, noto come il mito di Filemone e Bauci. Noi di questo mito, di questa novella, una novella tra l'altro sentimentale di ambiente familiare, ne abbiamo un'ottima narrazione in una delle metamorfosi, nel libro ottavo delle metamorfosi di Ovidio, dove proprio nel libro ottavo viene narrato questo mito. Tenete presente che Ovidio vive tra il 43 avanti Cristo e il 18 dopo Cristo. L'episodio si svolge una cinquantina di anni dopo quello che viene descritto dagli Atti degli Apostoli, quindi è qualche cosa che era noto nell'ambiente del tempo. Ci fa forse bene ascoltare il mito di Filemone e Bauci proprio per cogliere le assonanze che potevano esserci nel momento in cui Paolo e Barnaba compiono quel miracolo. Leggo il testo proprio da una traduzione delle Metamorfosi di Ovidio. Si racconta che un tempo, quando sull'Olimpo vivevano gli dei dell'antica Grecia, Giove, cioè Zeus, volle discendere sulla terra per rendersi conto di come gli uomini si comportassero. Per questo, preso l'aspetto di un uomo qualunque, egli e il figlio di Mercurio, cioè Hermes, il quale per l'occasione si era tolto dai piedi le ali, si diedero a percorrere le vie della Grecia. I due pellegrini, così travestiti, giunsero in Frigia, senza farsi riconoscere da nessuno. Bene, Listra era proprio in Frigia. Qui, desiderosi di trovare un rifugio dove riposarsi, si misero a picchiare di porta in porta, chiedendo ospitalità. Bussarono così a innumerevoli palazzi, ma dovunque furono scacciati e trovarono le porte serrate a catenaccio. Ecco, Saulo e Barnaba arrivano a Listra dopo tutta una serie di esperienze di rifiuto. Giunsero finalmente ad una povera capanna ricoperta di canne e di erbe palustri, dove abitavano due vecchietti della medesima età, la pia Bauci e il buon Filemone. In quella capanna Filemone e Bauci avevano vissuto insieme fin dalla giovinezza, in quella erano invecchiati senza vergognarsi della loro povertà e sopportandola tranquillamente tanto da non sentirne neppure il peso. Nell'umile dimora era inutile chiedere quale fosse il servo e quale il padrone. Vi erano due sole persone, tutte e due comandavano, tutte e due obbedivano. Qui Giove e Mercurio trovarono pronta cordiale accoglienza. Non appena furono entrati, chinando la testa per non batterla allo stipite della porta troppo bassa, il vecchio li invitò a riposarsi, porgendo loro una panca sulla quale l'accorta Bauci aveva steso un rustico tappeto. L'altro, nel frattempo, con un'asta forcuta, tirò giù un cosciotto di maiale affumicato, rimasto appeso per lungo tempo alla nera trave, ne tagliò una fetta sottile e la mise a cuocere nell'acqua bollente. La vecchietta, serratasi la veste alla vita, cominciò a preparare la tavola. Era una tavola a tre gambe, dovette rincalzarla perché una gamba era più corta. Quando l'ebbe ben pareggiata, ne strofinò il piano con la menta fresca, vi servì in piatti di coccio le olive sacre, le corniole dell'autunno, formaggio fresco, uova assodate nella cenere calda. Dopo fu portato in tavola un rozzo cratere, anch'esso di coccio, coppe di faggio spalmate e così via. Tolte via dalla mensa le vivande, viene mesciuto nella coppa il vinello asprigno di quell'anno, che poi, messo un poco in disparte, lasciò posto alla frutta. Se non che, durante il pasto, ogni volta che il cratere rimaneva vuoto, lo vedevano spontaneamente riempirsi, come se il vino sorgesse su dal fondo. Meravigliati per una cosa tanto straordinaria, Filemone e Bauci furono presi da timore e, levando le mani al cielo, invocarono perdono per i rustici cibi e per la mancanza di ogni apparato. Possedevano una sola oca che faceva da guardia alla povera capanna e i due vecchi si preparavano ad ucciderla in onore degli dei loro ospiti. L'oca, svelta, svolazzando qua e là, riuscì a lungo a sfuggire i due lenti inseguitori e finalmente trovò rifugio in grembo agli dei che la proteggevano e la salvarono. «Noi siamo proprio dei», dissero, «e i vostri empi vicini subiranno la punizione che hanno meritato. Voi invece rimarrete immuni dal flagello. Abbandonate dunque la vostra casa e seguiteci sulla cima del monte». I vecchietti ubbidirono e, preceduti dagli dei, appoggiandosi i loro bastoncelli, si sforzarono, quanto lo permetteva la tarda età, di salir su lentamente per l'erto pendio. Ecco, la storia poi continua con la città, il paese dove vivevano Filemone e Bauci si trasforma in una palude, tutto viene ricoperto d'acqua, tranne la loro povera capanna. La loro povera capanna si trasforma immediatamente in un tempio e mentre tutto questo avviene, Zeus e Mercurio, cioè Giove e Hermes, chiedono a Filemone e Bauci se hanno un desiderio da esprimere. I due vecchietti dicono agli dei di permetter loro di poter morire insieme e di restare a custodi di quel tempio. E gli dei accettano questa proposta e un giorno, dopo alcuni anni ancora di vita, i due vecchietti muoiono allo stesso tempo, trasformandosi in due enormi piante poste proprio all'ingresso del tempietto, come custodi eterni di quello che la divinità aveva compiuto. Ecco, una storia, se volete, sentimentale, di ambiente familiare, che si intreccia con la storia dei due apostoli, Barnaba e Paolo. Il loro miracolo li porta ad essere scambiati per Zeus e per Hermes, al punto tale che tutta la città cerca subito di manifestare la loro gratitudine, la propria accoglienza, per non fare la stessa fine che a suo tempo aveva fatto la città dove abitavano Filemone e Bauci. Ovviamente questa era la chiave di lettura che aveva il mondo pagano di fronte al miracolo di Saulo e Barnaba, e il narratore attraverso questo episodio ci fa capire che di fronte all'annuncio della parola di Dio in un mondo pagano, fuori dai recinti, è necessario adottare alcune cautele. E allora, quali sono le cautele che in questo caso bisognava adottare? La risposta la troviamo nei versetti che seguono, vale a dire nei versetti che raccontano il discorso che Paolo tiene a Listra. Siamo nei versetti dal 14 al 20 che ora leggiamo. Quando gli apostoli Barnaba e Paolo lo vennero a sapere, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla, gridando: «O uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani come voi, con le vostre debolezze, e vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che si trova in essi. Egli nelle generazioni passate ha tollerato che tutte le genti seguissero la propria strada, eppure non ha mai smesso di manifestarsi come benefattore, inviandovi dal cielo piogge e stagioni cariche di frutti, saziandovi di cibo e riempendo di letizia i vostri cuori». Con queste parole riuscirono a stento a impedire che le folle offrissero loro un sacrificio. Ma giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei che si guadagnarono le folle. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città pensando che fosse morto. Quando però i discepoli gli si fecero intorno, egli si rialzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Allora, notiamo che è necessario nell'annuncio al mondo pagano una propedeutica. E la propedeutica viene sintetizzata in questo primo discorso tenuto da Saulo e Barnaba di fronte all'uditorio pagano. Notiamo che in questo discorso non c'è nessuna citazione biblica, diversamente da tutti i discorsi tenuti da Pietro, nessuna citazione biblica, nessuna menzione di Israele. Si parte invece dal creato, si evidenziano i doni che Dio fa nel creato, le piogge, i frutti, il cibo, la gioia, tutti elementi a cui la cultura pagana era particolarmente sensibile. Pensate il cibo, pensate le piogge, pensate la gioia, le divinità erano pregate per ottenere dal cielo tutto questo, e si arriva al punto necessario per poi fare il passo ulteriore, cioè si invita alla conversione al Dio unico vivo, convertirvi da queste cose vane al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che si trova in essi. Cioè, di fronte all'incidente avvenuto dopo là, il miracolo nei confronti dello zoppo, Paolo e Barnaba capiscono che è necessario un passo previo. Il passo previo è la conversione dagli dèi al Dio vivente e lo sguardo da quelli che sono i miracoli compiuti dagli uomini, i miracoli compiuti attraverso la mediazione degli uomini, uno sguardo fermo a terra, ai doni che vengono da questo Dio vivente, che sono le piogge, i frutti, il cibo, la gioia, e su questa base, come dire, costruire, facendo capire che nessun uomo è migliore di un altro, tutti, anche Paolo e Barnaba, sono umani con le loro debolezze e predicano la conversione per scoprire colui che è il vero senso della vita. Ecco, questo passo, ci dice il testo, non è facile, perché nel momento in cui Saulo e Barnaba chiedono questo, sembrano non avere particolare successo, anzi, hanno la meglio, paradossalmente, alcuni giudei che nel frattempo si sono infiltrati e portano addirittura Paolo e Barnaba ad essere lapidati e a dover nuovamente fuggire. Questa volta la fuga si dirige verso Derbe, ben 90 chilometri da Iconio. Sembra che gli apostoli sentano il bisogno di fare un salto molto più lungo, perché la situazione si è fatta davvero pericolosa. Allora, questa seconda tappa, la tappa di Listra, ci mostra le sfide di una missio ad gentes. Se è vero che il Signore ci spinge ad uscire dai recinti, camminando davanti a noi e spingendoci a rischiare, ad andare per portare frutto, nello stesso tempo gli Atti degli Apostoli non ci nascondono che questa missione non è uno scherzo. Bisogna giungere preparati e soprattutto bisogna agire con una certa propedeutica, unendo la prudenza alla saggezza di saper ascoltare e cogliere una modalità comunicativa che sia adatta a coloro che ascoltano. Ecco, prima di percorrere l'ultima parte del capitolo 14, dove ci viene detto poi come tutto questo si conclude, va a finire, come si chiude anche il primo viaggio missionario, lasciamo ancora un breve stacco musicale, in modo che ciascuno possa rileggere questi versetti avendo modo di interiorizzarli. Quindi questo nostro capitolo 14 degli Atti degli Apostoli ci presenta i primi passi di una missione rivolta unicamente ed esclusivamente al mondo pagano. Ci ha mostrato gli inizi nella pagina di Iconio, quindi questa città dove Saulo e Barnaba hanno il successo attraverso quei doni dello Spirito nella parresia, nella testimonianza, nella caris, nella grazia.